Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti da Deborah Rosciani a Salva Danaio, buon inizio settimana, 10 gennaio, oggi si riprende a lavorare in tutta Italia, c'è stata una lunga pausa per molte aziende, ma oggi si riprende ovunque, anche con la scuola e si riprende anche per quello che riguarda tante altre attività. Ce n'è una che per la verità non si è mai fermata negli ultimi mesi ed è quel processo di telematizzazione dell'attività dell'INPS, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, con il quale, come sapete, da oltre un mese abbiamo attivato come Salva Danaio un'attiva collaborazione che si traduce nella rubrica quotidiana Le parole della previdenza in onda ogni giorno al termine della nostra trasmissione. Come vi abbiamo anticipato venerdì scorso, oggi nella puntata odierna di Salva Danaio, per parlare e descriverci la nuova era digitale dell'INPS, il presidente Antonio Mastrapasqua, che è presso i nostri studi di Roma e che saluto. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Bentornato a Salva Danaio. Intanto, passato bene le vacanze? Assolutamente sì. Ha monitorato attentamente l'avvento appunto delle novità per quello che riguarda la vostra attività di telematizzazione, digitalizzazione, come vogliamo chiamarla? Ma guardi, io la chiamerei come la semplificazione per i cittadini, che poi si può chiamare telematizzazione, informatizzazione, però sicuramente il modo più facile e più semplice per far dialogare i cittadini con una grande amministrazione come l'INPS. E cercheremo di capire in quale modo fare. Ricordo allora quali sono appunto gli step fondamentali che poi adesso riassumeremo anche nella nostra consueta scheda di apertura. Dal 1 gennaio di quest'anno le domande relative a circa una ventina di servizi erogati dall'INPS dovranno essere inviate esclusivamente in via telematica. Attraverso questo processo graduale improntato alla semplificazione, come diceva il presidente Mastrapasqua, per accedere ad alcune prestazioni e per effettuare una serie di comunicazioni, i cittadini dovranno avvalersi esclusivamente del web, di internet. Allora noi stamattina vi spiegheremo quali sono questi servizi, come si procede, se si deve procedere esclusivamente in via autonoma o se comunque ci si può o ci si deve rivolgere anche a qualche ufficio che inoltri le pratiche in via telematica per noi, perché come sapete non tutti hanno la praticità appunto di utilizzare internet come magari possono fare i ragazzi più giovani. E allora vi spiegheremo tutto questo, naturalmente anche microfoni aperti alle vostre domande, 800 24 00 24 per telefonarci e per intervenire in diretta, oppure se volete scriverci avete l'opportunità di farlo al 349 238 6666 oppure all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Un'occhiata alla borsa prima di partire, borsa che parte male. Settimana con un avvio decisamente brusco per i listini del vecchio continente, c'è un ribasso dell'1,43% a Parigi, dello 0,76% a Francoforte, un po' meglio vanno le cose a Londra che perde lo 0,56%, mentre Milano è in calo dell'1,46%. Quando le vendite piovono soprattutto sul settore bancario ed assicurativo, chiaramente Milano risulta sempre fra i listini più penalizzati d'Europa. Tutta questa tensione di questa mattina che si avverte anche sulle valute, perché l'euro è scivolato al di sotto della soglia di 1,29 sul dollaro, anche se adesso ha recuperato questo livello. Questa tensione appunto si è manifestata perché è ritornato il fermento sui mercati obbligazionari europei che in sostanza hanno riavvertito questa riaccesa speculazione sul debito dei paesi periferici in vista delle molte aste pesanti di titoli di Stato che sono in arrivo in settimana. Peraltro a scatenare nei giorni scorsi la corsa a liberarsi dei titoli di Stato è stato la Banca Centrale Svizzera, che ha detto appunto che per una serie di operazioni non prenderà più a garanzia titoli di Stato portoghesi e irlandesi. E quindi appunto vi ribadisco, questa è un po' la tematica della mattinata sulla quale concentrano le attenzioni gli investitori. Un appuntamento importante previsto per mercoledì, c'è un'asta molto corposa dei titoli di Stato portoghesi, poi avremo la riunione della Banca Centrale Europea giovedì. Oggi inizia anche la stagione delle trimestrali americane, come sempre inizia il colosso dell'alluminio al Alcoa, e questi sono un po' i temi, insomma, della giornata. Rapidamente i migliori e peggiori titoli di Milano. Bulgari, premiata da un report di Bank of America Merrill Lynch, guadagna il 2,54%. Mediolanum più 0,78%, Parmalat più 0,24%, STM più 0,18%. E qua abbiamo già terminato i titoli con il segno più. C'è anche Fiat SPA più 0,07%. I cali più forti: Lottomatica meno 5%, Fondiaria meno 4%, Buzzi Unicem meno 3%, Popolare di Milano meno 2,86%, Intesa, UbiBanca, Monte dei Paschi meno 2,5 punti. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi e parliamo dei nuovi servizi online dell'INPS. Una verifica dei contributi maturati durante la carriera lavorativa senza perdere mezza giornata di tempo recandosi alla sede INPS più vicina. Dal 1 gennaio si ha la possibilità di fare questo e molto altro stando comodamente seduti sul proprio divano attraverso il web. Il processo di digitalizzazione intrapreso dall'Istituto di Previdenza Italiano dall'inizio di quest'anno coinvolgerà mese dopo mese, con la dovuta gradualità, tutte le tipologie di domande presentate. Alcune di queste, come disoccupazione ordinaria, mobilità ordinaria e accentramento della posizione contributiva, vanno già presentate in via esclusiva attraverso il canale telematico. Una svolta importante che rappresenta una nota positiva non solo per il cittadino, ma anche per gli uffici, che avranno modo di smaltire più facilmente il carico di lavoro. L'accesso all'estratto conto elettronico e al CUD previdenziale, così come a tutti gli altri servizi del cassetto previdenziale del cittadino, è consentito esclusivamente ai contribuenti muniti del codice PIN rilasciato dall'INPS o della carta nazionale o regionale dei servizi. Ai destinatari dell'operazione verrà anche inviata una lettera in cui vengono fornite tutte le informazioni sul nuovo estratto conto elettronico e sul suo utilizzo. Niente paura per i tanti ancora poco pratici di internet, non si verrà lasciati soli, grazie anche alla creazione di un contact center, in pratica di un servizio telefonico abilitato a rendere chiarimenti sui servizi digitali. Un passo nella direzione dell'innovazione e della maggiore celerità in favore dei cittadini. Eccoci qua allora, speriamo anche con queste ultime precisazioni di aver fugato le preoccupazioni di molti che sono già i primi che ci stanno scrivendo, sia al 3492386666 che anche contattando all'800240024. Presidente Mastrapasqua, allora intanto le chiedo un po' per fare una cornice rispetto al tema di questa mattina: da quanto tempo si sta portando avanti il processo di erogazione dei servizi tradizionali dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale attraverso la via esclusiva del canale telematico? Perché leggevo che l'obiettivo dell'INPS è quello di rendere disponibile in rete nei prossimi 2 anni la totalità dei servizi, e quindi se questa tabella di marcia sarà rispettata, code e turni agli sportelli sono destinati a scomparire. Ma da quanto tempo si è iniziato e come? Ma guardi, innanzitutto una doverosa premessa: l'INPS dialoga con di fatto la totalità della popolazione italiana, la totalità delle aziende, la totalità delle persone che hanno bisogno di sussidi e di sostegno al reddito, la totalità delle persone che sono invalide, quindi noi dialoghiamo con tutta l'Italia giornalmente. Ci siamo posti un problema: le nostre sedi sono spesso oggetto di lunghe file, lunghe code, per cose che non sono di grandissima necessità di esperienza dei nostri operatori, ma solamente per presentazioni di carta. La gente esce di casa, deve andare lì, compilare dei moduli, presentare allo sportello, spesso ci sono degli errori. E allora ho avuto l'intuizione di dire: dobbiamo trasferire il più possibile, se non addirittura la totalità dei nostri servizi, sul canale telematico, che non è una presentazione che poi viene rielaborata, ovvero le nostre procedure entreranno direttamente nel sistema. Quindi mentre si compila la domanda ci si accorge se il codice fiscale è giusto o è sbagliato, se la data di nascita, se la residenza. Si eviterà di far presentare dei documenti dei quali noi già siamo in possesso, perché le procedure si aggiorneranno costantemente. Le persone da casa comodamente potranno fare la domanda, potranno compilarla, potranno avere la ricevuta. E questo è nato dall'esperienza dell'invalidità civile. Dal 1 gennaio del 2010, quindi dell'anno scorso, il 100% delle domande di invalidità civile è stata presentata in via telematica. Non è successo nulla, non abbiamo avuto grandi problemi, così come la sanatoria delle badanti nel 2009 è stata fatta in esclusiva in via telematica. Da lì abbiamo detto: lo dobbiamo fare anche noi per tutto quanto. È chiaro che c'è il problema del solo web e qui noi abbiamo trovato un sistema che continua ad aiutare i nostri utenti. Da una parte si può fare col contact center, ovvero tutto quello che è fattibile sul web è fattibile col contact center, quindi attraverso una telefonata. Chi addirittura né con il web né con la telefonata può recarsi, se vuole avere più, diciamo, un contatto umano, presso i patronati, gli intermediari dell'istituto o i consulenti e quant'altro. Quindi c'è la totale gamma delle possibilità di rivolgersi a noi, sicuramente senza dover uscire di casa, venire agli sportelli, far la coda e spesso essere richiamati dalle nostre sedi perché c'è stato dato un documento errato o manca qualcosa. Quindi in sostanza è anche un modo per come dire, fare una profilatura sempre più puntuale, precisa e corretta di tutti gli assistiti, in modo tale che appunto per tutte le domande che poi negli anni si rinnovano, perché magari in un certo periodo c'è da fare quella per la mobilità, speriamo di no, però insomma questo è un frangente nel quale molte domande sono anche di questo tipo, la disoccupazione oppure di un altro genere, e evidentemente magari mentre in passato per fare tre domande di tipo diverso in momenti diversi della nostra vita occorreva presentare magari la medesima documentazione, magari l'obiettivo adesso è di intanto limitare la carta, presidente, limitare il tempo naturalmente ed evitare doppioni di lavoro. Ma guardi, c'è una legge dello Stato che obbliga l'amministrazione a non chiedere quello che, di quali l'amministrazione già sia in possesso. Nessuna amministrazione lo fa perché è più comodo farsi portare un certificato che non doverlo andare a elaborare. Noi vogliamo arrivare a questo. Noi abbiamo la più grande banca dati informatica del paese. Beh, quando io compilo una domanda sul mio web, già lì mi si controlla se è vero la mia data di nascita, dove sono domiciliato, dove sono residente, quali sono il mio datore di lavoro, e mano a mano si va sempre più nella profondità del tema, appunto per dare un servizio migliore, ma soprattutto più celere, perché a questo punto lui è entrato nella nostra procedura informatica e quindi il cittadino ha già fatto una metà del percorso, quindi a noi manca da fare l'altra metà in modo celere e in modo senza errori. Noi abbiamo percentuali di errori per documenti portati o per errori che ci hanno fatto indurre i nostri utenti che sono altissimi. In questo modo dovrebbero ridursi a zero. Certo. Allora, all'inizio dell'anno, anzi a fine dicembre, sono state emanate delle circolari con cui sono state comunicate le novità che sarebbero entrate a regime a partire dal 1 gennaio di quest'anno e i nuovi servizi appunto resi operativi attraverso il canale telematico esclusivo. C'è la possibilità di chiedere l'accentramento delle posizioni contributive aziendali, la presentazione delle domande di indennità di mobilità ordinaria e la presentazione delle domande per la disoccupazione ordinaria. Sono queste, giusto Presidente, le tre novità a regime dal 1 gennaio? Esattamente. Dunque, noi abbiamo un pacchetto di 19 procedure già pronte. Abbiamo deciso che nei prossimi giorni, man mano, liberiamo di queste 19, c'è il primo pacchetto dei tre, quindi nel giro di 2-3 mesi le 19 procedure, quindi le 19 tipologie saranno rese disponibili. Nel frattempo noi abbiamo un obiettivo ambizioso, ma che riteniamo di poter riuscire a raggiungere, ovvero entro fine di quest'anno il 100% delle domande e delle interlocuzioni col nostro istituto sarà possibile farlo via web e via contact center o patronati e altri intermediari, rendendole mano a mano in via esclusiva, ovvero ci sarà un periodo transitorio di alcuni mesi, finito quello lì non ci si può più presentare ai nostri sportelli per presentare una domanda, perché sarà fatta attraverso altri canali e da noi si verrà per una consulenza, perché non scordiamo che le nostre materie sono complicate, spesso noi siamo impegnati a fare data entry o a fare acquisizione di domande e non possiamo dare la giusta consulenza delle quali le persone forse hanno più bisogno che non di ricevere una domanda. Benissimo, allora adesso ci dobbiamo fermare, Presidente, abbiamo già la prima pausa, 800 24 00 24, numero verde per le vostre domande. Adesso andremo ancora più nel dettaglio per magari attraverso esempi pratici capire come si fa ad inoltrare attraverso la procedura telematica la richiesta per l'erogazione della mobilità ordinaria o per la domanda di disoccupazione. E le anticipo anche, Presidente, che a prescindere da questi aspetti che sono quelli delle novità di quest'anno, ci sono alcuni ascoltatori che lamentano che dal nuovo sito, perché anche questo c'è da raccontare, non si può più vedere il calcolo della pensione. Ne abbiamo parlato anche nell'altra trasmissione, attraverso il PIN che l'INPS ha mandato a tutti gli iscritti, appunto c'era l'opportunità di individuare la propria posizione previdenziale. Qualche ascoltatore lamenta di non riuscire bene ad accedere a questo servizio, allora la lascio pensare anche un po' rispettivamente a questo e così poi rispondiamo anche agli ascoltatori a tra pochissimo. Eccoci ritrovati a Salva Danaio questa mattina con noi, come vi avevo già ampiamente anticipato la settimana scorsa, il presidente dell'INPS Antonio Mastrapasqua, con il quale stiamo parlando e raccontandovi e spiegandovi il funzionamento delle nuove funzionalità, perdonatemi il gioco di parole, dell'INPS. C'è un comunicato stampa emesso proprio dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale il 3 gennaio che parla di uno sportello INPS che è online. Dal 1 gennaio di quest'anno si presentano online le domande di disoccupazione ordinaria, di mobilità ordinaria, di accentramento delle posizioni contributive. Un'opportunità in via esclusiva. Presidente, però leggevo anche che con un messaggio recente avete anche presentato il nuovo servizio di trasmissione online delle domande di congedo, di maternità e paternità, ma per questo tipo di domande il servizio telematico non è ancora stato reso esclusivo, dovrebbe però esserlo a breve, se non ho capito male. Esattamente, è quello che dicevo poc'anzi, ovvero del pacchetto che noi abbiamo, che io ho deliberato qualche mese fa, iniziamo con questi tre servizi, ovvero mobilità, disoccupazione, accentramento. Piano piano nei prossimi 3-4 mesi liberiamo tutte quante le procedure in via esclusiva. Tra l'altro è stato anche diramato un rapporto qualche giorno fa proprio su quanti lavoratori maschi hanno usufruito nel 2009, quindi è una statistica che risale a qualche tempo fa, di qualche giorno di congedo parentale. C'è una statistica in crescita rispetto al 2008, quindi è un rapporto che si riferisce al 2009, appunto in raffronto al 2008. Su 10 mamme che chiedono di allontanarsi da lavoro oltre il congedo obbligatorio, solo un neopapà decide di chiedere un permesso da lavoro. Presidente, chissà se magari velocizzando le procedure di richiesta magari questa opportunità verrà accolta da un po' più di uomini, che ne dice? Ma sia velocizzando sia rendendolo con non un onere personale doversi recare presso il nostro ufficio, ecco, sicuramente. Infatti. Allora, le faccio, prima di andare appunto a spiegare le nuove modalità per fare la domanda di mobilità, domanda di disoccupazione o accentramento della posizione contributiva, sentiamo invece la domanda di Stefano da Sondrio questa mattina. Stefano, buona giornata. Sì, buongiorno a lei, Deborah. Innanzitutto i miei complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo approfittare della presenza del presidente dell'INPS per questa domanda che tra l'altro è già stata anticipata da lei, ossia come mai ultimamente, da quando c'è stata la rivisitazione del sito, del portale, non si trova più un qualche cosa molto molto utile. A mio avviso, mi occupo di consulenza finanziaria, sarà dal 2002 che a tutti i miei clienti ho fatto fare la richiesta del PIN e quant'altro. Come mai non si trova più la simulazione del calcolo della pensione e solo l'estratto conto, molto molto importante per le dovute verifiche dei contributi versati, ma un qualcosa di molto utile, tra l'altro, come avviene ed è stato detto anche, mi ricordo, da qualche politico in campagna elettorale, preso ad esempio dalla previdenza svedese, che tra l'altro è tra le più efficienti a livello internazionale, non si trova più la simulazione del calcolo della pensione. Quali sono i motivi? Ecco, o se è in previsione di reinserire questo utile servizio. Grazie Stefano. Allora, Presidente, state rivisitando questa parte del nuovo sito INPS? C'è qualche problema in particolare? Ma guardi, la questione è un po' più complessa, ovvero noi mandiamo e abbiamo iniziato quest'opera di grande trasparenza a 25 milioni, quindi a tutti i lavoratori attivi, l'estratto conto previdenziale e il CUD previdenziale. Quindi da qualche mese, mi piace dare anche un numero di questa mattina, dai 25 milioni di PIN che noi abbiamo mandato, 7 milioni di persone regolarmente stanno visitando il proprio estratto conto previdenziale. Quindi un successo, mi dicono che su questi temi quando si manda così di massa non sono queste le risposte. Quindi vuol dire che c'è grande attenzione rispetto alla propria posizione. Calcolo della pensione, per chi è vicino all'età pensionabile, quindi ai 24 mesi dell'età pensionabile, noi mandiamo sia cartaceamente che mandiamo il calcolo, perché abbiamo dei dati consolidati e dati certi. Per posizioni diverse da chi invece è vicino alla pensione, è impossibile da parte di un istituto che deve mandare delle proiezioni ovviamente attendibili fare delle simulazioni. Lo dico perché L'INPS non fa simulazioni, ovviamente, non può fare delle esercitazioni. L'INPS è un istituto pubblico che eroga le pensioni, che quando dice un numero è quello e non può essere né un centesimo di più né un centesimo di meno. Servono però delle stime, mediamente, come lei ben sa, Presidente, solo a quelle persone che chiaramente si stanno adesso interrogando se adottare forme di previdenza complementare, quindi devono capire anche che tipo di versamento fare e quanto implementare evidentemente la pensione che già sono teoricamente nel diritto di percepire quando andranno appunto in pensione. Certamente, però ecco, ripeto, il compito dell'INPS è quello di erogare le pensioni e di dare numeri certi. Non possiamo permetterci, e credo che nessuno lo vorrebbe, che un ente pubblico dicesse o potesse dare dei numeri che poi non sono quelli veri. Su questo ci sono altre istituzioni che lo possono fare, ci sono dei fondi pensione. Ci sono altissimo. Quindi mi sta dicendo che non ripristinerete questo servizio, Presidente? Ma guardi, prima non esisteva questo servizio, cioè c'è un po', nel momento in cui abbiamo mandato l'estratto conto previdenziale si è creata un po' di confusione tra quello che c'era e quello che non c'era. Noi possiamo e dobbiamo, oggi che diamo dei dati certi delle persone, dire quella che i contributi versati, ma sicuramente noi non conosciamo il futuro lavorativo di quella persona, e l'INPS, come tutti gli enti pubblici, non fa stime, non può fare simulazioni, ma deve dare dati certi, perché da noi giustamente le persone si aspettano numeri certi e dati certi. Benissimo, allora andiamo avanti con le novità delle quali vorremmo parlare questa mattina e che hanno rappresentato appunto il presupposto della nostra trasmissione. La possibilità di chiedere, Presidente, la domanda di indennità di mobilità ordinaria. Intanto, che differenza c'è fra l'indennità di mobilità e la disoccupazione ordinaria? Beh, la disoccupazione è quella che si ha nel momento in cui si interrompe un rapporto lavorativo, e se si hanno ovviamente i requisiti si ottiene un'indennità. La mobilità è quella che invece avviene nel momento in cui c'è una trasformazione, e quindi diciamo che si va verso poi il pensionamento, e quindi ha ovviamente una caratteristica diversa. A me vorrei sottolineare una cosa: alcune di queste procedure noi le abbiamo già sperimentate durante il 2010. E non dico con piacere, perché è chiaro che stiamo parlando di momenti nei quali c'è una difficoltà dell'attività delle persone, della vita lavorativa, però ecco, già avendolo sperimentato nell'anno scorso, abbiamo già avuto moltissime persone che si sono rivolte a noi in via telematica. Noi, ringraziando il cielo, abbiamo potuto far fronte con i nostri uffici, con i dipendenti che ogni anno, per via del blocco delle assunzioni, che ormai sono tanti anni che c'è, non abbiamo avuto criticità riscontrate sul territorio nazionale, a presenza invece di una grandissima richiesta o di mobilità o di disoccupazione o di cassa integrazione. E questo ci ha aiutato la telematica, ecco, questo voglio dirlo. Cioè, noi stiamo vedendo, abbiamo visto l'anno scorso, che l'informatica, la telematica aiuta nei momenti di difficoltà, aiuta nei momenti in cui altrimenti, abbiamo visto in altri paesi, per fortuna non in Italia, c'era la gente a fare la fila fuori per avere l'indennità. In Italia questo non è successo, grazie all'istituto e grazie alla telematizzazione che abbiamo messo in campo. Ecco, una cosa che naturalmente va precisata è che una volta che ci si siede davanti al computer, che si abbiano le capacità appunto per potersi avventurare in questo terreno, in questo dialogo telematico con l'INPS, per fare per esempio o la richiesta per la mobilità ordinaria o la richiesta per la domanda di disoccupazione, non è che poi la procedura, Presidente, perché questo forse è corretto precisarlo ai nostri ascoltatori, termini là. Per esempio, per quello che riguarda la richiesta di mobilità ordinaria, una volta che la domanda è stata inoltrata all'INPS in via telematica, poi questa domanda deve essere anche reinviata al lavoratore, che deve firmarla e ritrasmetterla, e qua c'è comunque la procedura tradizionale per posta o per via fax. Non è che tutto il processo si completa in un primo dialogo telematico di inoltro dati e di inoltro della domanda, appunto. Mi sbaglio? Guardi, per adesso c'è comunque una procedura di autenticazione. Noi stiamo facendo un ragionamento che va oltre, ovvero il PIN è qualcosa che potrebbe averlo intercettato chiunque e potrebbe averlo chiunque. Noi stiamo andando ad immaginare una sorta di canale certificato di comunicazione. Quello ci consentirebbe, però anche noi stiamo andando in un terreno oscuro, di evitare anche questo ulteriore passaggio, perché a quel punto noi avremmo la certezza che la persona è ovviamente la persona che ha diritto a quella prestazione, e non dovremmo più chiedergli nulla di ulteriori comunicazioni. è un qualcosa che stiamo già ragionando in questi giorni, potremo rilasciarlo nel giro di brevissimo tempo. Infatti no, le ho fatto fare questa precisazione solo perché alcuni ascoltatori appunto ci chiedono, l'ultimo dei quali che ci ha scritto è Valerio, che dice: perché se la domanda di sospensione del suo RSR72, non capisco cosa sia, viene inviata via web dal consulente, poi il lavoratore deve recarsi allo sportello IMSS per la conferma. Questo non mi risulta. Esatto, può anche evitare, qui c'è la... Assolutamente. O via posta o via fax, c'è un numero di fax. Presidente, è già possibile, avete già avuto modo di osservare in queste prime giornate di gennaio se ci sono già stati appunto degli utilizzi più o meno massicci, insomma, di questi nuovi canali per fare queste domande, oppure ancora è troppo presto per poterlo dire? Ancora è abbastanza presto, perché sicuramente è una cosa abbastanza nuova. Però ecco, per esempio, oltre a queste cose qui, proprio per far capire e far vedere come si sta modificando il nostro atteggiamento, l'INPS spedisce ogni anno, questa è una piccola cosa che non c'entra niente con la disoccupazione, indennità, ma per far comprendere il nostro atteggiamento, spedisce ogni anno circa 80 milioni di lettere a tutti gli italiani per le cose più diverse, e spesso e volentieri non è arrivata, poi ti arriva una sanzione o ti richiedono il documento, così. Noi da pochi giorni nel nostro sito web c'è una casella postale virtuale, ovvero ognuno di noi può andare e vedere se negli ultimi 5 anni, siamo riusciti ad andare solamente 5 anni indietro, è stato mandato qualcosa, chi l'ha ricevuto, che se c'è una ricevuta di ritorno, e quindi c'è una totale trasparenza, ma anche totale possibilità di vedere cosa è successo tra il momento in cui abbiamo mandato un documento e questo documento non è mai arrivato. Ecco, anche questo è, immagino, nessuna amministrazione fa questa cosa qui, neanche spesso, devo dire, ho sentito privati che l'hanno fatto. Mm-mm. Per uno come l'istituto, che è il più grande speditore, no, di lettere e quant'altro italiane, perché 80 milioni di lettere credo che non le spedisca nessuno ogni anno, beh, è un momento nel quale noi vogliamo che la persona, non dico ogni giorno, ma come si deve controllare il stato conto bancario, deve farlo con quello previdenziale, così come dice: fammi vedere se mi ha mandato qualcosa l'INPS, il portiere era assente o mi hanno preso le cose dalle buche delle lettere. Cioè, deve diventare un dialogo costante attraverso il web, che è il sistema più facile, per dialogare con noi, che comunque per un motivo o per un altro con i cittadini mensilmente dialoghiamo. Certo, allora, tra l'altro non abbiamo ricordato, lo abbiamo menzionato più volte, poi magari entreremo anche nel merito dell'attività del vostro contact center, che si chiama così in una maniera un po' difficile, ma è un call center appunto che risponde a questo numero, contact center integrato 803 164, e poi appunto ne parleremo. E mi piacerebbe anche, Presidente, adesso devo andare di nuovo in pausa, ma che ci illustrasse anche per esempio chi sono quelli che lei prima ha definito i nostri intermediari accreditati, perché magari per avere consulenze sui temi dei quali stiamo parlando questa mattina si può andare appunto ai patronati, dai sindacati appunto, oppure anche agli intermediari accreditati dell'INPS, come lei ci diceva, ma chi sono queste figure, in modo tale che possiamo avere chiaro anche un quadro di riferimento di interlocutori possibili. Le chiedo anche, se vuole, io non mi ricordo se lei ha un computer davanti adesso nel nostro nuovo ufficio di Radio 24, se magari appunto ci aiuta aprendo il sito dell'INPS a capire dove andare per appunto poter inoltrare le domande delle quali stiamo parlando questa mattina, che sono le novità di quest'anno. Tra pochissimo. Eccoci ritrovati allora in diretta a Salvadanaio, stiamo aspettando anche di poter mandare qualche domanda di qualche ascoltatore, ne stanno arrivando molte, devo dire la verità, non sono però proprio esattamente in linea con il tema che vogliamo affrontare stamane con il presidente Antonio Mastrapasqua. Poi per tutti gli altri quesiti vi prometto, come stiamo facendo, che giriamo all'INPS appunto i vostri quesiti, ce ne sono di tanti tipi, ma appunto non essendo esattamente in linea con i temi di oggi li lasceremo da parte, molti appunto erano relativi alla mancata simulazione appunto delle pensioni, degli assegni pensionistici appunto, che era un servizio reso dall'INPS fino a qualche tempo fa, adesso non c'è più. Su questo il Presidente ha già risposto qualche minuto fa. Allora, Presidente, a che cosa ero rimasta? Ai vostri come li chiamiamo così, intermediari, accreditati, consulenti appunto, che possono rispondere ai cittadini dei nuovi servizi telematici appunto che avete messo a disposizione per inoltrare tutta una serie di domande. Oltre ai patronati, dove si può andare? Si può andare ovviamente dai propri consulenti, possono essere i consulenti del lavoro, i commercialisti o i CAF. diciamo, mm-hmm. attraverso queste reti di intermediari, chi non può farlo, non vuole farlo con il web, chi non è in grado mm-hmm. di farlo con il contact center, può trovare, o non vuole farlo da casa, ecco, perché certo. Può andare presso qualcuno di questi intermediari e fare lo stesso tipo di servizio. Quindi nessuna paura per chi non, come dire, non ha un rapporto molto sereno con il computer, perché insomma ci sono ancora tante persone che sono in queste condizioni, anche perché poi, appunto, come diceva giustamente prima il Presidente, la possibilità di cadere nell'errore è anche sempre piuttosto elevata, quindi ancora se non ci si sente pienamente in sicurezza ci si può rivolgere a questi operatori professionali. Presidente, una domanda di Peppino dalla provincia di Monza e Brianza. Buongiorno Peppino. Sì, buongiorno. Volevo chiedere un'informazione, anzi due. Una era, io il mese prossimo maturo i diritti per andare in pensione con 40 anni di servizio, però devo aspettare ovviamente un anno perché questo avvenga. Ed essendo in aspettativa, volevo chiedere se ho diritto all'indennità di disoccupazione, se questo lo posso fare via web. Ah, Peppino, sentiamo un po', Presidente, lo mettiamo in difficoltà con questa domanda? Ma aspettativa di che cosa? Peppino... Sì. In aspettativa, cioè, sono praticamente non sono più occupato. Io ho maturato i 40 anni e mi sono licenziato dall'azienda. Quindi è un'aspettativa. Più che aspettativa. Sì. Deve trovare comunque un modo per trovare una prestazione di sostegno al reddito. Immagino che l'aspettativa in genere ha una natura anche giuridica diversa, sì, questa è un'altra cosa. Se la persona, è chiaro, bisogna conoscere il caso specifico, se la persona si è licenziata è difficile che abbia diritto. Peppino, lei adesso si è collocata a riposo in attesa della pensione, per quale motivo? L'azienda ha chiuso i battenti? C'è un'altra ragione? L'azienda ha ridotto per il personale. Ha ridotto il personale e allora ha chiuso i battenti e ha detto vabbè, vi pago i contributi fino al raggiungimento dei 40 anni e poi basta. Allora, ecco, io suggerirei a Peppino al signor Peppino da Monza Brianza, bisogna vedere il caso specifico, perché azienda che riduce, paga i contributi, sembrerebbe quasi che infatti. Da uno scivolo, ecco, va vista con un po' più di e infatti anche perché qui non c'è nel presupposto della disoccupazione, credo, perché in questo caso debba essere cessato completamente il rapporto di lavoro, e non so se in questo caso appunto è contemplato che comunque a fronte di una cessazione del rapporto di lavoro l'azienda riesca a riconoscere anche i contributi come ponte, diciamo, dal momento della cessazione del rapporto di lavoro al momento della pensione. Effettivamente è un caso abbastanza particolare. Peppino, rimandiamo allora l'esame del suo caso ad un altro momento, nel pomeriggio immediatamente ce ne occupiamo. Sentiamo anche Enzo da Roma. Buongiorno. Buongiorno Enzo. La mia domanda può riguardare anche altri colleghi pensionati come me. Sì. Buongiorno innanzitutto anche al Presidente oltre che a lei. Grazie. L'anno scorso, all'inizio del 2010, nel mandare le comunicazioni annuali, l'INPS aveva anticipato che nel corso del 2010 avremmo ricevuto un PIN per accedere ai nostri dati che ci potevano interessare. Io nel corso dell'anno, non avendo ricevuto il PIN, ho telefonato al numero 803 eccetera, però la persona non mi ha saputo rispondere alla mia domanda che diceva o è stata accantonata l'iniziativa o è spedito, e allora se è stato spedito e la lettera è andata smarrita a chi posso chiederlo? E non mi ha saputo rispondere. Allora, a me piace disturbare il Presidente. Ma ci mancherebbe altro. Guardi che il Presidente in maniera molto serena si è messo a nostra disposizione anche per rispondere, ovviamente nel limite delle nostre possibilità, perché lui, facendo il Presidente, avendo anche un altro tipo di ruolo, ovviamente le micro questioni non le può conoscere, ci può però dare un indirizzo, so che lo fa molto volentieri. Presidente, il codice PIN anche ai pensionati è stato inviato, in questo caso cosa può essere successo? Uno smarrimento? Oppure... Sicuramente, però ecco, io ho seguito le sue indicazioni, quindi ho aperto il sito wimps.it e ce l'ho di fronte, quindi servizi online per tutti i servizi dei quali abbiamo parlato fino adesso, quindi disoccupazione e mobilità, al servizio del cittadino, uno clicca lì dentro e inizia quello che si usa dire navigazione, insomma, per andare ad avere le informazioni, poter presentare la domanda. In fondo c'è scritto grande, molto grande, con un lucchetto: richiedi il tuo codice PIN online. Eccolo. Quindi non abbiamo mandato, forse è andata smarrita, qualsiasi motivazione, uno va sul sito e autonomamente si crea il suo PIN, e a questo punto può navigare e può fare tutti i servizi, perché ecco, può darsi che la lettera, come dicevo poc'anzi, su 80 milioni qualcosa è andato smarrito, o forse anche noi abbiamo fatto un errore, autonomamente uno si può creare il suo PIN e a quel punto può accedere ai servizi senza dover aspettare una nostra lettera. Benissimo, tra l'altro stavo anche cercando di orientarmi nei numerosi messaggi che stanno arrivando. Paolo da Brescia lamenta il fatto che è tutto fantastico quello che stiamo dicendo, purtroppo internet, ma questo è un altro problema, non è colpa dell'INPS, ancora non raggiunge tanti comuni. Chi vuole andare in Ferrari su strade non ancora asfaltate, e insomma, però adesso questo magari è veramente una questione che riguarda, speriamo, poche aree del però, nostro però, paese. Presidente, però per questo noi, per questo noi abbiamo voluto mettere il contact center integrato, che inizialmente non l'avevamo previsto, invece abbiamo ritenuto che con il contact center si poteva aiutare o tanta gente che non sa usare il web o zone del paese dove ancora non c'è un web molto veloce. Perché si chiama integrato, presidente? Come mai avete voluto dare questo aggettivo? Perché non si limita solamente a fare da call center, ma eroga dei servizi. Cioè, proprio una compilazione anche materiale da parte dell'interlocutore, esatto, che si interpella. Esatto. Ecco. La persona che risponde non è solamente una che risponde e poi passa un'altra persona. Cioè, oggi, per esempio, si fanno le iscrizioni delle domestiche o le cancellazioni delle stesse via contact center. Quindi si dà il nome, si dà il cognome, si dà il nome della persona, quello lì lavora la pratica, manda il bollettino e quindi diciamo che è un avamposto dell'istituto attraverso il telefono. Quante persone impiega questo contact center integrato? Circa 1000. Però insomma avete dovuto formare anche un bel po' di persone, immagino, perché appunto non devono solo rispondere ma poi attivamente prestarsi al servizio degli iscritti. Assolutamente. Facciamo allora un esempio, presidente, apriamo il sito INPS, lei l'ha già fatto, devo fare la domanda per la richiesta di mobilità, che è un intervento a sostegno di alcune categorie di lavoratori licenziati da aziende in difficoltà per garantire questa indennità sostitutiva della retribuzione ed eventualmente anche possibilmente si spera favorire in maniera serena reinserimento nel mondo del lavoro. Apro il sito, dove devo andare? Servizi online, ovviamente. Che è bello. Come vede sulla parte sulla destra c'è in scritto, blu. Sì. Esatto, c'è scritto: se tu hai ricevuto i primi 8, vai da una parte per avere il PIN, se non l'hai ricevuto, invece vai sotto. Vado al servizio del cittadino, perché sono questioni che riguardano il singolo cittadino, e quando clicco a questo punto mi chiede il PIN. Perché ovviamente senza il PIN non si può andare oltre, perché si entra nella parte personale e deve essere garantita. Il garante della privacy ce l'ha chiesto e ovviamente noi abbiamo prontamente obbedito la massima riservatezza dei dati che noi stiamo andando a ottenere dal cittadino. Quindi tra l'altro volevo anche ricordare che questo il tema della domanda per la mobilità è l'oggetto della vostra circolare 171, se qualcuno la volesse recuperare, avere qualche dettaglio proprio tecnico in più rispetto a questo. Sicuramente sul sito, ecco, e questo è anche importante, dando merito anche a chi l'ha realizzato, questo è il sito più visto in Italia, credo che nel 2010 si sono raggiunte i 350.000 persone al giorno, con, se non erro, circa 2 miliardi di pagine sfogliate. 2 miliardi era a settembre, forse siamo andati a 3 miliardi, quindi immaginate quanta gente va sul nostro sito. Ecco, oggi qui c'è quasi tutto, forse è carico di notizie, l'abbiamo cercato di rendere il più facilmente visibile, ma ci sono le circolari, i messaggi, i moduli, gli avvisi, i concorsi, gli appalti, i fascicoli, cioè, abbiamo cercato di mettere sul sito la maggior parte di informazioni, perché ecco, il numero delle pagine visitate fa capire quanta gente usa il web in Italia. Diamo allora questo indirizzo: www.imps.it, mi sembra molto semplice da poter raggiungere. Ricordo anche, prima di salutarci, presidente, il numero del vostro contact center integrato: 803 164, oppure più facilmente 803 164. Noi abbiamo terminato, presidente, io la ringrazio per essere stato con noi, così se questa nostra collaborazione, come spero che sia, andrà ancora avanti con le nostre parole della previdenza, ci dovremo risentire il prossimo mese, cercheremo sicuramente qualche tema interessante. Molto volentieri, grazie a lei, grazie a tutti. Grazie al presidente dell'INPS Antonio Mastrapasqua, Gaia Romani per la collaborazione in redazione, Filippo Auregi in assistenza tecnica, io torno domani da Deborah Rosciani, buona giornata a tutti.